La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, eccoci qua puntuali come ogni sabato pomeriggio, quasi sera, quando su New York e su tutta Italia calano le prime ombre della sera, come diceva il mitico Nick Carter. Ecco, siamo qua a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi. Settimana tipicamente autunnale nelle uscite cinematografiche, quindi insomma con tanta carne al fuoco, magari non tutta memorabile. Noi abbiamo cercato di estrarre come sempre i film di cui vale la pena parlare. Avremo interviste, avremo ospiti, avremo Ascanio Celestini con noi, segnaleremo, vi diremo cosa vedere in televisione, giocheremo insieme la Rosa Purpurea @radio24.it con il nostro DVD game che la settimana scorsa avete finalmente indovinato dopo due settimane di stallo. Ebbene, quindi cambia il film. Tutto questo comincia con un film che si intitola Io che amo solo te. Domani mi sposo! Dubbi? No, che dubbi? Lui è come il pan, sa da fare una cosa, papà, vero? L'importante è che ci sia l'amore, ecco. C'è un matrimonio, c'è l'amore. Hanno fatto una pagina Facebook che si chiama Se Damiano Scagliuzzi si sposa, tanto vale farci tutte suore. Damiano, senti io... Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita... Della mia gioventù. La vitalità della Puglia in queste ultime stagioni cinematografiche come set è confermata da questo film Io che amo solo te di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, coppia principale, poi Michele Placido, Luciana Letizzetto e via via tanti altri attori. Polignano Amare che fa da sfondo a questa vicenda e Domenico Modugno che è il nome tutelare di questa città. La storia di un grande amore di tanti anni fa che non si era compiuto e di un nuovo amore fra i figli dei protagonisti del grande amore di tanti anni fa che sembra convolare a giuste nozze. Ne parliamo con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Cominciamo dal sud, cominciamo dal mare, cominciamo dalla Puglia, da Domenico Modugno e da Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Meglio questo amore giovanile dell'amore mancato di tanti anni prima. Marco Ponti alla regia, come ha virato, diciamo, sotto quale colore, sotto quale tono ha virato questa commedia sentimentale? Beh, intanto, parafrasando Caparezza, ormai si potrebbe cantare Voglio girare in Puglia, perché davvero sembra che non si possano fare film senza passare per questa regione meravigliosa, e francamente non la trovo inflazionata, perché veramente le location riescono ad essere estremamente varie e accoglienti e anche capaci di essere personaggi importanti all'interno del film. Io che amo solo te, che cosa dire? Dovete, come nel caso appunto dei medicinali, leggere bene le avvertenze, e in questo caso vi deve piacere il melodramma sentimentale, vi deve piacere tanto, dovete accettare le regole del melodramma sentimentale, dovete anche sospendere la credibilità di alcune storie, non perché siano così incredibili, ma perché inevitabilmente quando i sentimenti sono così caricati bisogna crederci, bisogna essere molto romantici, bisogna avere in sé quel qualcosa in più che ti porti a entrare all'interno del film. Io che amo solo te conferma che l'alchimia tra Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti dopo Voglia di te c'è ancora, è forte e insomma fa buona parte del film. Che Marco Ponti è un regista che mi addolora vederci dare così poco, perché ha una buona capacità tecnica e una fluidità narrativa che merita. Il film è un film scontato inevitabilmente nella scrittura, a me ricorda molto un film minore di Susan Bier, All You Need Is Love, che aveva proprio questa capacità di entrare dentro una favola a gamba tesa, senza aver paura di finire nello stereotipo, anzi sguazzandoci. Ovviamente Marco Ponti, da scrittore e narratore, non direi furbo, ma abile, mette l'elemento nostalgia, mette il romanticismo dalla parte sbagliata, avendo due facce così belle come quella di Scamarcio e Chiatti, e quell'alchimia decide però invece di portare l'attenzione dello spettatore e la sua su un amore meno scontato, un amore antico, un amore che scontava a suo tempo i mille problemi che c'erano a viversi i sentimenti, e ovviamente quello che deve intenerirci il cuore, deve strapparcelo un po', è proprio il coronamento di un sogno che sembrava impossibile o ormai passato definitivamente. Non vi sorprenderà questo film, vi coccolerà, ci riesce bene, è un film che per molti versi va sul sicuro, probabilmente Marco Monti aveva anche bisogno per ricominciare di un film non difficile, però se siete dei romanticoni andateci. E allora andateci se siete dei romanticoni a vedere Io che amo solo te, e fra poco, dopo la viabilità, se siete dei romanticoni un po' particolari, un po' surreali, potete andare a vedere anche Viva la sposa. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, La rosa purpurea, il secondo film di cui parliamo è ancora un film italiano, si intitola Viva la sposa e lo dirige Ascanio Celestini, che è uno dei nomi più interessanti, più particolari, più anarchici se vogliamo, anche rispetto al mainstream del sistema di cinema e di teatro anche italiano. Aveva esordito alla regia per un lungometraggio con La pecora nera, che era un film molto interessante, anche che sfiorava anche tematiche importanti come quelle della malattia mentale. Adesso sempre con lo stesso tono, fra lo scanzonato e il surreale, firma Viva la sposa, di cui è protagonista, insieme anche alle presenze di Alvaro Urracher, Veronica Cruciani, Salvatore Striano. Le storie direi di una Roma marginale, periferica, di Nicola, soprattutto il personaggio di Celestini, che ha problemi con l'alcol, però si convince molto spesso di provare a fingere a finire di bere. La storia di un ragazzino che si trova di fianco e deve praticamente crescere, portarsi a spasso per la città come fosse un figlio. La storia di un piccolo truffatore di assicurazioni che però ha una sua etica, e di un altro invece che è più grande l'etica non ce l'ha. La storia di una prostituta dal cuore d'oro. Tutto questo, come dicevo, in uno sfondo di una Roma che sarebbe piaciuta per i personaggi raccontati a Pierpaolo Pasolini. Sentiamo la clip che abbiamo estratto dal film, poi ne parliamo, e ci aspetta anche l'intervista ad Ascanio Celestini. Briacone, assassino. Ti devi trovare un vecchietto o un ragazzo, un mezzo impedito. Gli dai una botta vicino allo specchietto e fai cadere il cellulare. E il gioco è fatto. Sofia, quando sono tornato a casa non t'ho trovato. Cioè, non è che mi dovevi aspettare. Quel fazzoletto rosso che tu portavi al collo è l'amore che ti voglio, è l'amore che ti voglio. Ti sembro diverso. Quel fazzoletto azzurro non ti va bene. No, anzi, sei bellissima. Abbiamo detto che smettevi di bere. Sì. Guarda che non te lascio più mio figlio. Maria delle tabacchine, svegliaci oltre confine di questa realtà. Viva la sposa. Viva la sposa, il titolo del film. Boris, prima di ascoltare Ascanio Celestini, una battuta sul film. Ascanio Celestini, sai perché mi piace? Mi piace perché ha due virtù importanti. Una, di saper mettere in scena in una maniera estremamente personale. Due, di non cercare per forza l'incontro col pubblico attraverso la facile, come dire, il facile copione, la facile lacrima, il facile sorriso, ma di trovare sempre la via più lunga per arrivarci, e questo secondo me ne fa sicuramente un personaggio prezioso nel nostro panorama cinematografico. Assolutamente tutto verissimo. Da romano io ho potuto scoprire Ascanio Celestini quando il resto d'Italia probabilmente lo ignorava a teatro, quella capacità di dipingere affreschi portando a sé una quantità di personaggi incredibile, tutti ben tratteggiati, è qualcosa che va vissuto, ecco, è un teatro che va vissuto e che consiglio a tutti, anche attraverso i materiali in DVD che potete trovare facilmente. Viva la sposa è un alternarsi di scene bellissime, come quella per esempio nel commissariato verso il finale, e di personaggi molto belli come quello di Alvaro Orvacher o di Salvatore Striano, e di una parte di Roma che io stesso non conoscevo e che è un personaggio a sé, una periferia, una serie di 3 o 4 isolati che rappresentano un mondo e che andavano raccontati e che lui racconta benissimo. L'unico problema del film, a mio parere, che non è piccolo, è proprio che forse l'abitudine a convogliare su di sé tutti i personaggi ha creato un'esplosione di questi personaggi e forse ce ne sono troppi. Quando hai voglia di conoscerne uno più a fondo si va altrove, quindi nel film non riesci mai a entrare del tutto, e questo è forse il problema del linguaggio cinematografico di Ascanio Celestini. È talmente bravo in un altro linguaggio che nella coralità ancora si deve ritrovare. Sono d'accordo però con te che il suo modo di raccontare, il suo modo di essere all'interno del racconto è straordinario e unico, e solo per questo vale la pena, anche se hai un'impressione di discontinuità e incompletezza. Comunque è una voce e uno sguardo sul mondo che deve esistere e che devi vivere. E allora andiamo ad ascoltare Ascanio Celestini, intervistato dalla nostra Chiara Pizzimenti. Un film che nasce come un film, non nasce da un libro, non passa dal teatro. Viva la sposa nasce così? Sì, sì, nasce come storia per il cinema, perché quello che a me piaceva raccontare era un posto proprio, cioè nel senso delle strade, un ambiente, delle case, una certa anche architettura, un pensiero urbanistico, che è quello delle case popolari che stanno al Quadraro Nuovo in particolare, e che nonostante siano case per gente non ricca, insomma, case nate per essere costruite in economia e per persone che vivono con delle economie piccole, sono case molto dignitose, cioè per raccontare che quella parte di città e quella parte di persone che noi non vediamo normalmente, non per forza devono essere persone, devono essere scarti, ma possono avere nella loro anche povertà una dignità. Ci sono però in questo film personaggi, non voglio dire negativi, ma senza speranza? O c'è un po' di speranza? La sposa è la speranza, ma il resto? Non lo so se la sposa è la speranza. Infatti le due domande che mi fanno sul film sono: chi è la sposa e che cos'è il finale? Io non c'ho una risposta. In un'inchiesta uno dà delle risposte. In un'opera che nasce come opera di scrittura letteraria devono rimanere delle immagini che lasciano allo spettatore un margine anche ampio di interpretazione, di immaginazione, insomma una possibilità di ricercare dei significati. Sono personaggi che non hanno un destino, o meglio che non si pongono il problema di averlo un destino, non vanno incontro ad un destino, qualcuno finisce bene, qualcuno finisce male, e questo dal mio punto di vista li rende né buoni né cattivi, anche quando compiono degli atti al limite della violenza, anche violenti, li compiono perché loro sono fatti così, insomma, nel senso il leone si mangia la gazzella perché è il leone, quello è il suo pasto. Ha parlato con molte donne che hanno perso fratelli, mariti, persone per fatti legati alla polizia. Com'è stato parlare con loro? Che cosa raccontano queste donne? A tutti loro io ho chiesto di raccontare com'era questa persona da viva, perché noi in realtà conosciamo sempre quello che è accaduto in quel momento lì, come è morto, quando sappiamo realmente come è morto, quando veniamo a saperlo e non lo dobbiamo solamente immaginare, noi sappiamo come è morto, qualcosa, gli ultimi minuti probabilmente, l'ultimo momento, l'arresto se c'è stato un arresto, e poi tutta la storia che viene dopo, quindi il processo, il dolore, mentre invece quello che viene prima, la vita di questa persona quando era viva, non la conosciamo quasi mai, non la raccontiamo quasi mai, un po' per pudore, un po' perché nessuno gliela va a chiedere a Lucia Uva com'era Giuseppe Uva da ragazzo, che cosa facevano quando si incontravano a pranzo, a cena, quali erano i discorsi e come viveva lui quando era vivo, mentre invece questa è la cosa più importante. E allora Ascanio Celestini al microfono di Chiara Pizzimenti per Viva la Sposa. È arrivato il momento di giocare insieme. Allora, ricordatevi il nostro indirizzo di posta elettronica, larosapurpurea@radio24.it, e provate a indovinare questo film. Quando ho mollato l'insegnamento e sono entrata alla CIA, credevo che sarei diventata una perfetta spia. Invece mi ritrovo ad essere più sfigata di prima. E allora, questa era la prima clip di un film che dovete provare ad indovinare e scriverci il titolo e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it per vincere il Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Parliamo del film che ha vinto la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes nel maggio scorso, si intitola Dipan, spero di pronunciarlo bene, è diretto da Jacques Audiard. Sentiamo la clip e ne parliamo un attimo con Boris Sollazzo. Dipan aveva 35 anni, sua moglie 24, la figlia ne aveva 9. Loro sono morti tutti 6 mesi fa, adesso quella famiglia siete voi. Lei non è mia figlia. Lui non è mio marito. È tutto finto. Non voglio problemi nel mio quartiere. Oddio, Ganesh. Ti supplico di vegliare su di noi. E fa che tutto alla fine vada bene. Voglio restare con voi! Non mi lasciate! E allora, la storia di Dipan, appunto, che scappa dalla guerra civile nello Sri Lanka, si finge famiglia con una donna e una bambina per rifugiarsi a Parigi, è chiaramente un film che racconta una parabola che è quella di tanti migranti che cercano fortuna, cercano rifugio nelle nostre città dell'Europa occidentale. Boris, un film di Jacques Audiard, che è un regista che aveva regalato film come Il profeta, come Un sapore di ruggine e ossa, come Sulle mie labbra, che però ha molto diviso alla notizia dell'assegnazione della Palma d'Oro nel maggio scorso. Beh, davvero le vie dei festival sono infinite, nel bene e nel male. In questo caso nel male noi ci ritroviamo con un regista che ha fatto tutti i film da Palma d'Oro, secondo me, è veramente un autore straordinario, capace di percorrere un immaginario suo con uno stile molto profondo e interessante, che con il suo film più banale e estremamente didascalico va a vincere il premio più importante del cinema mondiale. Diciamo che le giurie raramente accontentano i critici, aggiungo che raramente riescono anche ad andare realmente a segno, forse perché inevitabilmente i capolavori si vedono alla distanza. Dipan è un film che ha un suo interesse nella prima parte, quando il ritratto di quest'uomo guerrigliero senza paura si sgretola di fronte alla realtà squallida che deve vivere in una Francia bastarda, e immagino che la Palma d'Oro nasca anche da un senso di colpa di un paese allo stesso tempo progressista e molto conservatore e di una vita che non è più la sua, di un uomo che ha perso tutto e cerca di riacquistarlo, riconquistarlo con un'operazione violenta di unione di tre solitudini. Quel racconto di quel microcosmo in alcuni momenti, soprattutto grazie alla figlia, acquista la forza degli universi precedenti di Jacques Audiard. Ma man mano che il film va avanti, man mano che cerca una soluzione narrativa, man mano che vuole trovare il suo percorso, si perde invece clamorosamente. È totalmente incapace di tenere le premesse e le promesse che ha in sé, anche perché forse sono troppe, sono eccessive, sono anche troppo ideologiche, fino a un finale che, se vogliamo essere gentili, possiamo definire surreale, altrimenti completamente sballato, in cui Dipan si trasforma in un improbabile Rambo e suscita anche un certo umorismo involontario. Purtroppo davvero non solo non merita la Palma d'Oro, ma purtroppo è il peggior film di Jacques Audiard, è uno dei peggiori che ho visto in quest'anno. Incredibile davvero, come dicevi, le strade dei festival sono infinite. È successo tante volte questo, che poi uno viene premiato magari così come premio di riparazione, però insomma così funziona. Allora, restate con noi, perché invece fra poco, Boris, parliamo di un film che sono certo ha esaltato anche te. Si tratta di The Wolfpack, è un documentario straordinario su 7 fratelli davvero particolari della New York contemporanea. La rosa purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea, terza parte. Come dicevamo, The Wolfpack, un documentario straordinario, un film che però ha proprio un'anima molto molto forte, arriva nelle sale italiane, io vi consiglio vivamente di andarlo a vedere. Cos'è The Wolfpack? La storia vera, nella quale si è imbattuta a un certo punto la regista Crystal Moselle, che poi ha avvicinato questo gruppo familiare, lo ha spiato da dentro, di sette fratelli che vanno dai, diciamo, più o meno dai 13 ai 20 anni, sono nati a raffica, diciamo così, uno dietro l'altro, figli di una coppia mista, una coppia con madre americana e padre peruviano, nella Manhattan di oggi. Allora, uno pensa a sette fratelli che vivono nella Manhattan di oggi e immagina gli sfondi di New York, eccetera. Ecco, niente di tutto questo. Loro sono sempre restati in casa. Da quando sono nati, il padre violento in certi momenti, ma anche brillante in altri momenti, seguace Hare Krishna, che voleva tenerli riparati dal mondo, non contaminarli con tutte le sporcizie dell'umanità, bene, ha deciso, d'accordo con la madre, che sarebbe stata la madre che aveva la patente per poterlo fare, a istruire in casa, e quindi sono ragazzi estremamente brillanti, estremamente tosti, ma che a decidere quando si poteva uscire di casa sarebbe stato il padre, unico tenutario delle chiavi di casa di questo appartamento nell'Lower East Side. Per cui per i sette fratelli Angulo, peruviani d'origine, il mondo è quello visto o dalla finestra, quando si riesce ad alzarla, oppure dai film. Hanno una venerazione per il cinema, sanno a memoria e trascrivono a memoria tutte le battute dei film, e molto spesso li rimettono in scena, sembra quasi uno spin-off di Be Kind Rewind, ricorderete, con Jack Black. Ecco, tutto questo a un certo punto deve avere, e ha anche proprio a livello drammaturgico, di racconto cinematografico, uno snodo, un momento, che è quello in cui uno dei fratelli indossa una maschera ed esce in mezzo alle strade di New York. E questo cambia tutto, cambia il loro senso anche di rispetto e venerazione, quasi fino a quel momento, di un padre Dio, e diventa invece quasi odio nei confronti di chi li ha sostanzialmente segregati, sebbene senza fargli mancare niente, come si diceva una volta. Sentiamo questa clip, poi ne parliamo con Boris. My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off. Always lived in this apartment. In the summer, there was more chance of us getting out. Sometimes we go out once a year. This is like 3D, man. It's very fresh out here. And at one particular year, we never got out at all. Ecco qui proprio il momento in cui il film è in lingua originale con i sottotitoli, il momento in cui uno dei fratelli racconta che c'è stato un anno in cui non sono usciti mai, perché in piccole porzioni ogni tanto alla chetichella venivano portati fuori per un massimo di 9 volte all'anno, ma c'è stato un anno appunto in cui questo non è assolutamente accaduto. Boris, io sono rimasto totalmente travolto e spiazzato di fronte a questo film. Tu? Film assolutamente pazzesco, un film sconvolgente in ogni sua parte, ma non solo nella drammatica cinematografica, ma anche in quella esistenziale. Ti porta a farti domande pesanti e pensanti anche sulla tua vita, perché è inevitabile che un racconto come quello che illustravi tu sia un racconto estremo, ma che Crystal Moselle riesce a dipingere come normale, come possibile, anche perché banalmente è avvenuto. E, bravissima Crystal Moselle a fare la stessa operazione, secondo me, anche se con uno stile completamente diverso, di Sarah Polley in Stories We Tell, in cui ormai capiamo, penso anche a Sacro Gra, che il documentario ha definitivamente preso un'altra strada narrativa, che non è né la finzione documentata né il documentario tout court, ma è una forma di narrazione che è altra sia rispetto alla fiction che rispetto al documentario. Pazzesco anche tutto ciò che riguarda le scelte narrative. Noi siamo per un'ora di fronte a questi sette fratelli, vorresti un film su ognuno di loro, perché addirittura la sorella, se vogliamo, è davvero meriterebbe uno spin-off a parte. E quando pensi di aver visto tutto, quando pensi di aver capito tutto, lei ti spiazza con la scelta più difficile, cioè quella di mettere in campo, di mettere nell'inquadratura Oscar, questo padre che tu hai conosciuto solo attraverso le proibizioni e la divinizzazione che ne hanno fatto questi figli, e devi fare i conti con lui, devi fare i conti con un carisma perverso, devi fare i conti con un cattivo che è fin troppo normale, devi fare i conti con quello che lui pensa essere bene, ovvero crescere i figli fuori dalle contaminazioni del mondo, lasciandogli quello che tu, da spettatore cinefilo o da critico cinematografico, ritieni la cosa più bella del mondo, ovvero il cinema. E dall'altra parte ci sono questi ragazzi che vivono attraverso il cinema, che si raccontano con il cinema e si raccontano come il cinema. È qualcosa di incredibile, perché lo sforzo registico è straordinario, perché mettere in rappresentazione attraverso le loro parole, attraverso le immagini, un racconto del genere, uno sforzo sovraumano. E alla Moselle, non a caso, come Sarah Polley, una mano femminile, riesce benissimo. E però è anche un film che è uno straordinario inno alla libertà, perché anche nel momento in cui si crea un meccanismo perfetto, il delitto perfetto, tra virgolette, la libertà è più forte di qualsiasi cosa. È un film che ti fa esplodere il cuore e la mente, sia perché è bellissimo, sia perché arriva ai valori principali, ai valori primari, e te li racconta con una potenza straordinaria. Davvero lo ricorderemo a lungo, questo film che ha vinto il Gran Premio della giuria al Sundance, meritatissimo, e davvero dovremmo farci i conti sia cinematograficamente che esistenzialmente per molti molti anni. E ricordiamolo che nel frattempo esce in Italia in, per il momento, sei città, Milano, Roma, anzi cinque città, Milano, Roma, Trieste, Matera e Pescara, ma che uscirà, avrà una sua circolazione anche tipo tour. Voi chiedetelo fortemente, come si diceva una volta, chiedetelo in edicola, ecco, chiedetelo fortemente al vostro cinema di fiducia, perché è un film assolutamente da non perdere. È stato il film d'apertura anche di Alice della Città alla festa del cinema di Roma. Insomma, è davvero uno dei film che segnano una stagione cinematografica, questo The Wolfpack. E allora, è il momento di giocare nuovamente insieme, prima di passare a un altro film in sala, The Walk, molto molto atteso, il secondo frammento del film misterioso di oggi. Sei divertente, hai un tempismo perfetto. Ma è divertente quanto te, Super Cooper. Ha un'altra missione compiuta. Viva la squadra. Viva la squadra. Ci sono nomi, ci sono atmosfere, c'è la squadra, c'è la missione, insomma, di che film si tratta? Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it e la prossima settimana, ascoltandoci, scoprirete i vincitori. Dicevamo, è il momento di parlare di The Walk, film che segna innanzitutto il ritorno di Robert Zemeckis nei cinema italiani, con Joseph Gordon-Levitt protagonista della storia del funambolo francese Philippe Petit. La gente mi chiede: perché rischi la morte? Per me questa è la vita. Benvenuto a New York. Niente da dichiarare? Sono qui per sospendere un filo tra le due torri del World Trade Center e attraversarlo. Auguri! Philippe Petit vi ha già raccontato la sua filosofia di vita e il suo sogno. Sogno impossibile per qualsiasi altra persona. Realizzabile e realizzato invece dal funambolo francese nell'agosto del 1974. Petit ha camminato per quasi un'ora su un cavo che lui stesso con alcuni complici aveva teso durante la notte sulle torri ancora in costruzione, a 400 metri d'altezza. Si comincia. Avanti, scattare a zona rossa! Lo so io come far passare il filo. Oh! È meglio aspettare. No! Ad attenderlo c'è la polizia, ma lui non la teme di certo. L'impresa l'ha fatta ed è ancora qui a raccontarlo, a dire che si sente più sicuro su una fune che con i piedi per terra. Cosa può trarre in un film che racconta una storia nota e su cui pochi anni fa è stato fatto un documentario Man on Wire premiato con l'Oscar? Inaspettatamente è la suspense. The Walk tiene attaccati alla poltrona, prima di tutto lo fa con la tecnica. Non che ci fossero dubbi sulle capacità di utilizzare il meglio della tecnologia a disposizione da parte di Robert Zemeckis, il regista di Ritorno al Futuro, che ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e Polar Express. Ma qui il 3D ha veramente un senso ed è usato al meglio per far stare lo spettatore sul filo con Philippe. Si va dentro lo schermo, non sono gli oggetti a uscirne. Dice Philippe Petit che i limiti esistono soltanto nell'anima di chi è corto di sogni. E questo è l'altro motivo che fa appassionare al film. Ci si chiede fin dove arriverà il funambolo e perché mai lo fa. La sua quotidiana follia è interpretata da Joseph Gordon-Levitt, che parte da una Parigi in bianco e nero, che sembra venire dalle origini del cinema, e arriva a una New York a colori, che ci racconta tutto dalla cima della Statua della Libertà, simbolo della grande mela che ancora rimane, non come le Torri Gemelle, morte l'11 settembre del 2001. Il pubblico apprezza e sale sul filo. Ci ha fatto stare in ansia, ma ci ha fatto anche molto sognare. Molto bello. Un film che fa sognare anche, che non so andare sul filo. Un film bello, emozionante, ben fatto. Tecnicamente perfetto, perché vivi la scena come se fossi lì, quindi poi il 3D è anche molto, molto ben fatto. Forse alcuni pezzi ovviamente romanzato, un po' reso, però davvero appassionante. E allora ci ha raccontato The Walk di Robert Zemeckis la nostra Chiara Pizzimenti, con tanto di interviste a bordo campo, diciamo così, in fine sala. È stata tra l'altro anche la settimana un po' di Robert Zemeckis, visto anche il Back to the Future Day, no? Il giorno in cui il 21 ottobre 2015 il secondo Ritorno al Futuro portava gli spettatori. Se ne è parlato molto. Io ricordo che invece giovedì scorso è andata in onda proprio una puntata qui su Radio 24 del Falco il Gabbiano, il bellissimo programma di Enrico Ruggeri, dedicata alla storia vera di Philippe Petit, riascoltabile in podcast sul sito di Radio 24. Quindi quando andate a scaricare La Rosa Purpurea, siete sempre in tanti a farlo, scaricate anche il Falco il Gabbiano del 22 ottobre e potrete anche confrontare suggestioni cinematografiche e storia vera. Linea alla viabilità, fra poco di nuovo insieme. L'ultimo film al cinema è Dark Places e poi tutto il cinema da vedere in casa. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci al rush finale della Rosa Purpurea con Dark Places, l'ultima delle pellicole in sala di cui vogliamo parlarvi. Charlize Theron, protagonista. Sentiamo la clip. Mamma, bene nei guai? Ho sentito delle voci. Che tipo di voci? È così strano. Ha un sacco di cose brutte in camera sua. Ben... scappa! Avevo 8 anni quando le uccisero. È stata una vera tragedia. Voglio che ci aiuti a capire quello che è successo. Va da tuo fratello. Tutto inizia con lui. Che vuoi dire? È innocente, Libby. Ecco la mia sorellina dopo tanti anni. Non ho bisogno di chiedertelo. So che le hai uccise tu. Invece no. È ora di dire la verità. Mi dispiace per te, ragazzina. Anche tu sei imprigionata come me. Thriller classico, una famiglia massacrata tanti anni prima, una sorella testimone che è riuscita a sfuggire al massacro e invece un fratello probabilmente innocente che è rimasto invischiato in tutti questi anni in una lunga galera, e dopo tanti decenni la piccola di allora è diventata la donna di oggi, Charlize Theron appunto, una sorta di clan di pazzi che vogliono riaprire i cold case la contatta e dice: noi sappiamo che le cose potrebbero venire fuori, la verità potrebbe venire fuori e far scagionare tuo fratello. Ecco che però questa ferita si riapre anche nel corpo e nella mente della protagonista. Boris, brevemente per Dark Places, diciamo, commerciale di comunicazione forte di questo film è il fatto che il libro da cui è tratto il film è lo stesso da cui fu tratto Gone Girl, Amore Bugiardo, e questo, diciamo così, secondo chi lo promuove, dovrebbe essere un po' la motivazione all'acquisto del biglietto. Biglietto che secondo me però stavolta forse è un po' meno meritato. È un po' meno meritato. meritato di Gone Girl sono d'accordissimo, che sia però un film interessante, perché probabilmente quel punto di partenza è talmente straordinario che in mano un regista abile possa far nascere qualcosa di speciale, questo pure è vero. Qui va detto che la grande forza del film è Charlize Theron, una Charlize Theron costantemente in jeans e berretto, con un'espressione arrabbiata, irrisolta per tutto il film, che però non è un'espressione granitica, è la traduzione di qualcosa di indicibile come la tragedia che ha vissuto. Il regista ha un'idea intelligente, cioè quella di costruire in maniera molto classica la narrazione su un doppio piano di temporale, e di sfogare la sua capacità registica nell'evocazione e nel seguire questa che si conferma per l'ennesima volta una grande attrice. Attraverso questo noi arriviamo lì dove, tra virgolette, l'amore è bugiardo, appunto, e percorriamo questo thriller che, come in Gone Girl, non si traduce nella reale soluzione del caso, ma nel viaggio che si fa per arrivarvi, e questa è la forza del film. Ovviamente è in scala, cioè non stiamo parlando di Gone Girl, anche perché non stiamo parlando dello stesso regista, ma è comunque un film valido per gli amanti del genere e anche per gli amanti del libro. Insomma, non sfigura senza essere un capolavoro. E allora, grazie Boris anche per questa settimana, per averci aiutato nel racconto dei film in sala. Ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. Ed eccoci allora alla parte conclusiva della nostra trasmissione, quella in cui però sveliamo i vincitori del game della scorsa settimana e diamo un'occhiata a cosa succede in televisione nei prossimi 7 giorni. Cominciamo con la clip del game di 7 giorni fa. Scusa, quando parte questo treno? Devo ritornare subito a Richmond. Questo treno non parte. Senti ragazza, io ho fretta, perché non mi aiuti? È molto importante. Beh, comunque non ci puoi salire su questo treno. I bomber hanno perso la testa, non lo sai? E allora si trattava, abbiamo dovuto aiutarvi però per capirlo, di Strade di Fuoco di Walter Hill. L'hanno vinto, l'hanno indovinato questa volta Vito Miraglia di Matera ed Emilio Gatto di Corsico, provincia di Milano. A loro l'edizione in DVD di questo film che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, parliamo di una favola rock and roll elementare, con una principessa rapita da un cavaliere nero e liberata da un eroe errante, ambientata in un imprecisato contesto fuori dal tempo e fuori da ogni luogo, uno strambo luogo postmoderno dove il cartoon incontra i film dei selvaggi della strada di un Roger Corman. Walter Hill lavora proprio sui minimi termini, sul grado zero del racconto, e si inventa un pastiche veramente strambo e travolgente, un'avventura musical che anticipa di anni il linguaggio sincopato dei videoclip contemporanei. È veramente uno dei cult di questo grande regista, forse sempre sottovalutato, e finalmente arriva in versione alta definizione. È un film veramente da riscoprire e da avere in questa versione, nonostante il master utilizzato non sia eccellente e ci siano zero extra. E allora, questa è l'edizione in DVD Strade di Fuoco. Occhiatina ai palinsesti della prossima settimana, cinema americano recente ma veramente molto classico nel suo essere forte d'inchiesta, Leoni per Agnelli alle 12.40 di domenica 25 ottobre su Rai Movie. In Afghanistan due soldati americani sono bloccati in territorio talebano, a Washington il senatore repubblicano concede un'intervista a una giornalista, in California un professore conversa con uno studente brillante ma decisamente refrattario all'impegno. È un dramma in tempo reale con 3 storie contemporanee ma non intrecciate e tantissime chiacchiere per raccontare l'America, interrogare lo spirito politico di 3 generazioni di un intero paese, ed è un film che veramente non dà nulla per scontato ed è oltre ogni pregiudizio, un film veramente rigoroso anche se imperfetto e molto molto urgente, proprio un bel film di Robert Redford che è uno scandaglio proprio nella coscienza morale di un paese e una sorta di pantano intellettuale, una sorta di stasi etica della storia. E invece 3 giorni dopo, quando ho visto la sigla di Michael Cimino, non mi sono mai più trattenuto, Il Siciliano alle 13.50 sempre su Rai Movie. Sì, per arrivare subito al punto, il siciliano in questione è Salvatore Giuliano, responsabile della strage di Portella della Ginestra, è al centro di un intrigo politico e mafioso che il cinema ha indagato diverse volte, ad esempio penso a Francesco Rosio oppure al rigore filologico di Paolo Benvenuti in un film chiamato Non a caso Segreti di Stato. Qui però non c'è nessuna controstoria, nessuna controinformazione, nessuna indagine, perché Cimino, come l'amato John Ford, stampa la leggenda. Il suo è un Salvatore Giuliano che sogna l'annessione della Sicilia agli Stati Uniti, una sorta di antieroe ribelle individualista in un contesto di cinema come al solito tipico e veramente maiuscolo, però tagliato dalla 20th Century Fox che distribuì il film in una versione di 117 minuti che con ogni probabilità è quella che vedrete in TV e che Cimino ha disconosciuto, ma che comunque rimane grandissimo cinema. E purtroppo Cimino è stato molto molto, come dire, contrastato dalla produzione della grande macchina del cinema americano. Grazie a Giulio San Giorgio, ci sentiamo fra 7 giorni. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati così alla conclusione della nostra puntata della Rosa Purpurea. Io vi ricordo che sabato prossimo noi non ci saremo, ma non perché spariamo nel nulla in un vortice cinematografico, ma perché c'è la chiusura di Expo e Radio 24 sarà presente con uno speciale che durerà praticamente tutto il pomeriggio e sarà interamente dedicato a questa manifestazione così importante per il nostro paese che si va a chiudere. Ma chiaramente ci saremo la settimana dopo, il sabato, come sempre alle 18, qui su Radio 24, a raccontarvi tutto il cinema che c'è.